Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E grazie, grazie di esserci. Complimenti alle due fate turchine. Buongiorno, vi volevo fare i complimenti perché siete le donne più simpatiche. Ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole. Cristina, e che carina che alleggerite veramente la giornata. Guardi. Buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, vi adoro, siete bravissime. Sono una vostra fan accanita, lo saprete. Brava. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'è chi smette di fumare e chi fuma per non fumare. Ma cosa fuma chi fuma per non fumare? E chi fuma per non fumare, fuma o non fuma? E noi torniamo a parlare di sigaretta elettronica, che guadagna i favori dei fumatori alle prese con la voglia, la necessità di smettere, ma che divide la comunità scientifica. Le questioni aperte sono tante: la sicurezza a lungo termine, il rapporto rischi e benefici, la reale efficacia nella cessazione del fumo. Se fumate, se svapate, 800 24 00 24. Oggi cerchiamo di fare chiarezza e, con i risultati delle ultime ricerche alla mano, chiederemo ai nostri esperti di raccontarci luci e ombre dello svapo. Ma chiamateci anche se avete smesso per dirci come avete fatto, e chiamateci anche se non volete smettere, magari riusciremo a farvi cambiare idea. Inoltre, se siete utilizzatori di sigarette elettroniche, raccontateci un po' come avete fatto a trovare quella giusta per voi. Voi, se l'avete trovata subito, se invece l'avete dovuta cercare un po' a lungo, e se il vostro obiettivo è smettere o continuare. In studio con noi oggi il dottor Roberto Boffi. Buongiorno dottore, il nostro dottor antifumo, l'abbiamo ribattezzato così. Va bene, buongiorno. Grazie, buongiorno. Responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e direttore del centro antifumo. In linea invece abbiamo il professor Riccardo Polosa, direttore della clinica di medicina interna ed urgenza del Policlinico Universitario di Catania e professore ordinario di medicina interna. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Cuore Denari. Allora, oggi vogliamo però coinvolgere anche i non fumatori esposti, nonostante i divieti di fumo nei luoghi pubblici, al fumo passivo di seconda e terza mano. Il primo è il fumo ambientale, in pratica è il fumo che respiriamo quando siamo vicino ad una persona che fuma. Quello di terza mano è quello di cui invece si impregnano gli abiti, i cappotti, le gonne, le maglie del fumatore, ad esempio il tipico caso, no, della mamma o del papà che si accendono una sigaretta sul balcone di casa, così per non viziare l'ambiente domestico e quindi evitare l'inquinamento passivo. Poi rientrano nell'appartamento, prendono in braccio il bambino e gli fanno comunque respirare delle sostanze tossiche. Quindi 800 24 00 24 per chi non ha mai fumato, per chi ha smesso, per chi ce l'ha fatta da solo, per chi sta cercando di farlo svapando. E a proposito, nella seconda parte noi cambieremo radicalmente argomento, ma in qualche modo stiamo vicino all'elettronico. Parleremo di rifiuti da smaltire, parleremo di RAE, che sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che spesso sono ingombranti e difficili da gestire quando non funzionano. E allora smaltirli nel modo giusto è molto importante per l'ambiente, ma anche per garantire un'opportunità alla nostra economia. Con i nostri esperti raccoglieremo i consigli per non fare errore. 800 24 00 24, iniziate a dirci di cosa vi vorreste liberare. Non valgono le conduttrici e le suocere. La sigaretta elettronica mi ha trasformato la mente. Non sono più dipendente e adesso il presente lo vivo con lei. La sigaretta elettronica mi fa sembrare attraente. E in mezzo a tutta la gente, in ogni frangente, la porto con me. Sigaretta elettronica batte tradizionale 1-0. Meglio l'elettronica della bionda, almeno per la salute. Questo è un punto su cui forse siete tutti concordi. La ragione è semplice, intuitiva, anche per chi non si occupa di clinica. Sentiamo che cosa introduciamo con una bionda. Di oltre 4.000 sostanze chimiche che si creano nella combustione del tabacco alla temperatura di 800 gradi centigradi, sappiamo che almeno 250 sono nocive, come nicotina, monossido di carbonio. E poi acido cianidrico, usato anche nelle armi chimiche, era il composto base per il famigerato Zyklon B delle camere a gas naziste. Ammoniaca, noto disinfettante. Toluene, si trova negli inchiostri da stampa e nelle vernici. Perossido di idrogeno, acqua ossigenata. 62 sostanze sono cancerogene. La maggior parte è contenuta nel condensato o catrame, come ad esempio il benzopirene, che si trova anche tra i prodotti della combustione di rifiuti indifferenziati, negli scarichi dei motori diesel, a nafta, a cherosene. L'arsenico, un metallo pesante tossico che i personaggi dei gialli di Agatha Christie versavano per lo più nel tè di individui sgraditi. Il cadmio, un metallo tossico contenuto nelle batterie, è uno dei motivi per cui vanno smaltite a parte e non gettate tra i rifiuti indifferenziati. Il cloruro di vinile, composto organico noto anche come PVC, usato nei manufatti plastici. Il polonio 210, sostanza radioattiva. Secondo i ricercatori, chi fuma 20 sigarette al giorno per un anno è come se si sottoponesse a 300 radiografie. Allora, dottor Boffi, lei sorride perché l'abbiamo estrapolata dal suo libro intitolato Spegnila, sì, che ha scritto con la collega Donatella Barus, quando di sigarette elettroniche non se ne parlava ancora, no? Vero. Tocca scrivere un altro libro, dottor Boffi. Ma può aggiornarlo, dai. Dai, allora, la voce sigaretta elettronica, lei adesso che cosa scriverebbe? Beh, no, sorridevo perché è stata definita, come spesso capita, la sigaretta è una bionda, no? Allora, questa è una bionda elettronica, che mi fa un po' sorridere questa definizione, però effettivamente era un fenomeno che è un fenomeno che è giusto approfondire, studiare e parlarne come stiamo facendo qui stamane. Per cui nel libro avrei messo alcune regole per usarla bene. Prima di tutto avrei spiegato come è nato il fenomeno e come è costituita la sigaretta elettronica e i vari tipi di sigarette elettroniche che ci sono in commercio. Perché ad esempio secondo noi è decisamente importante comprarla solo presso rivenditori affidabili. Sì. Perché si dice la sigaretta elettronica, ma ce ne sono molte in commercio. Esatto. Dire. E poi porsi degli obiettivi per smettere completamente di fumare, perché il rischio altrimenti è di alternarla alla sigaretta tradizionale per un certo periodo, ma poi di abbandonarla e ritornarla alle vecchie abitudini. Questo è un pericolo che sicuramente esiste. E poi di un consiglio che metterei nel libro è di rimanere nell'ottica di utilizzarla per un periodo limitato di 3-6 mesi al massimo, in modo che la sigaretta elettronica resti un supporto, smette di fumare e non diventare una nuova dipendenza. Professore, vengo a lei. Con la sigaretta elettronica, di quelle oltre 4.000 sostanze chimiche che si creano nella combustione del tabacco alla temperatura di 800 gradi, forse anche un pochino di più, vero, dottor Boffi? Sì. Che cosa resta? Allora, paradossalmente i vapori delle sigarette elettroniche sono stati molto ben studiati in questi ultimi 3 anni. Io direi che di quelle 4.000 più sostanze ne rimangono meno di una quarantina. E di questa quarantina sicuramente la maggior parte sono molto meno tossiche dei noti cancerogeni presenti nelle classiche bionde. Punto e basta. Allora, ma intanto resta con noi. Eh no. Ah, certo. Rimango. Allora, intanto voglio leggervi i messaggi dei nostri ascoltatori e poi dare la parola subito a Riccardo da Torino, Rosalba dalla provincia di Milano. Allora, fumavo io e mia moglie, abbiamo smesso a febbraio 2013 dopo un'influenza fortissima. Molti fumatori smettono dopo una mal di gola molto forte dell'influenza, insomma. Purtroppo poi se non c'è una forte motivazione profonda si rischia di ricadere se la causa è solo quella della salute, però spesso però è il primo movens. Ecco, si dovrebbe prendere l'occasione. Allora, premette che fumava due pacchetti al giorno e fumava da quando aveva 17 anni, ora ne ho 64. Comunque l'aiuto me lo ha dato la sigaretta elettronica con il massimo della nicotina, professor Polosa, ma Vittorio da Monza dice che lui era talmente nauseante questa sigaretta che ha smesso definitivamente, quindi anche in questo senso l'ha aiutato. Professore. La domanda che si vuole porre a noi è: come cercare di gestire al meglio questo prodotto e come accoppiarlo, diciamo, alle esigenze del personale del fumatore. È chiaro che se io ho fumato per una vita Kent al mentolo non potrò adattarmi bene a un prodotto con 36 mg ml di nicotina. Quel prodotto si sposa bene a un fumatore con una storia di tabagismo legata a una Marlboro rossa. Penso che dal punto di vista di comportamento del consumatore e nella fattispecie del fumatore abbiamo ancora tanta strada da fare, però una volta chiariti alcuni di questi punti sicuramente saremo in grado di orientare meglio le scelte dei fumatori che vogliono sdoganarsi al tabagismo e passare al vapagismo. Di fatto, quando sono sorti, così come i funghi, i cosiddetti vape shops, in realtà quello che è successo è che il venditore ha potuto guidare meglio il consumatore in questa scelta, cosa che non succede quando si compra per esempio la sigaretta elettronica tramite internet. Allora, abbiamo in linea con noi Riccardo da Torino e Rosalba dalla provincia di Milano. Precedenza Rosalba, buongiorno Rosalba, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Pronto? Sì, Rosalba, la sentiamo. Che cosa ci racconta? No, niente, semplicemente la mia testimonianza, nel senso che io fumavo una decina di sigarette al giorno, però comunque avevo intenzione di eliminarle e ho provato con questa sigaretta elettronica. Devo dire che mi sono trovata subito bene, anche perché l'ho presa senza nicotina, cioè non mi andava di rientrare nel circolo comunque vizioso della nicotina. Ecco, quindi ho iniziato subito così e devo dire che sono... Insomma, quasi un anno che non fumo più le sigarette appunto tradizionali, mi trovo benissimo. Ma non Rosalba, mi scusi, lei non fuma più le sigarette tradizionali, continua a fumare la sigaretta elettronica o ha smesso definitivamente? No, continuo per il momento a fumare quella elettronica, sì. Però non sono dipendente, nel senso che la metto in bocca nel momento in cui mi viene voglia, quindi non è una cosa, cioè, che ce l'ho in bocca dalla mattina alla sera, come vedo spesso appunto tanti. Ecco, quindi mi ha aiutato molto e spero di abbandonare anche quella col tempo, ecco. Nella gestualità sicuramente la sigaretta elettronica aiuta. Beh, certo. Sì, perché... Vero Rosalba? Dottor Boffi? Beh sì, perché è un prodotto che ricorda moltissimo la sigaretta tradizionale. In grosso modo si può definire la dipendenza dal fumo in due modi, quella fisica e quella psicologica. Evidentemente la radioascoltatrice l'aveva principalmente psicologica, quindi non ha sentito la cosiddetta sindrome di astinenza da nicotina. La maggior parte invece degli utilizzatori della sigaretta elettronica preferisce le cartucce con la nicotina perché sente altrimenti l'assenza di questa vera e propria droga e quindi i sintomi di malessere dall'insonnia, alla depressione, alla stitichezza, all'ansia che avviene quando uno smette di fumare bruscamente. Allora, io dicevo, la comunità, ho anticipato che insomma della sigaretta elettronica si parla molto, si continua a parlare e naturalmente ne parlano anche medici e ricercatori. Io ho diviso la comunità scientifica, forse impropriamente estremizzando, in due filoni: i più prudenti da una parte e i più favorevoli dall'altra. Allora, schieratevi, non a caso il dottor Boffi è affiancato dal professor Polosa, schieratevi e diteci la ragione della vostra posizione. Professor Polosa, posso etichettarla come favorevole? Ci abbiamo pensato un po', no? Come definire questa corrente di pensiero, se favorevole, se progressiste, se propensi, se ottimisti. Favorevole, eh? Favorevole, sì, certo. Le ragioni Allora, le ragioni sono molto semplici. Intanto originano dal mio trascorso nella lotta al tabacco. Il fumo fa male, bisogna smettere. La realtà è che se è pur vero che il 70% dei fumatori vuole smettere, solo l'1-2% su base annuale poi riesce a smettere. Quindi abbiamo bisogno di alternative. Quali alternative erano disponibili? L'unica alternativa disponibile fino a 5-10 anni fa era l'utilizzo di centri antifumo, l'uso di cerotti, di gomme, di farmaci antifumo specifici. Purtroppo la letteratura ci insegna che l'impatto di questa gestione del tabagista non ha portato grandi risultati. Quindi la comparsa all'orizzonte della sigaretta elettronica e del suo successo rappresenta sicuramente una validissima alternativa in termini di salute pubblica. Allora, dottor Boffi, il nostro dottor antifumo l'abbiamo etichettato come prudente. Prudente. Ma sì, non è un aggettivo che secondo che le sta scomodo, no? No, assolutamente. Visto che lavoro all'Istituto Nazionale dei Tumori, ogni cosa che esce naturalmente da un istituto di ricerca come il nostro non può che essere innovativo ma anche prudente. Secondo me la sigaretta elettronica è giusto definirla una straordinaria opportunità, ma anche ricca di problematiche, perché è un nuovo dispositivo, nella novità sta a volte appunto la necessità di essere prudenti, e che è un rilascio però di un vapore, di sostanze che vengono liberate con un vapore, che nella maggior parte dei casi però viene utilizzato con una droga che si chiama nicotina. Quindi l'opportunità è capire quanto questo dispositivo può essere utile nel trattamento del tabagismo. Questo deve essere lo scopo primario mio, naturalmente, di pneumologo che si occupa di aiutare le persone a smettere di fumare. I dati attuali, tipo i dati DOXA, parlano di meno del 20% di persone che ha smesso di fumare con la sigaretta elettronica. Molto promettente, secondo me, questo è lo scopo secondario, cioè la riduzione del fumare. I dati DOXA qui parlano più del 40%, e quindi una sostituzione sicuramente meno dannosa rispetto alla sigaretta tradizionale. Però ci sono i rischi, che possono essere, come dicevo prima, quello di rimanere dipendenti alla nicotina, e anche è controverso la possibilità, il rischio di reclutare nuovi adepti alla nicotina che possano iniziare, soprattutto giovani, a svapare e poi passare alla sigaretta tradizionale. Avete sentito le ragioni dei nostri esperti, e le ragioni per cui li abbiamo schierati da una parte nel filone dei prudenti e dagli altri dei favorevoli. Intanto da casa schieratevi anche voi, raccontateci se fumate, se svapate, che cambiamenti avete notato, se la sigaretta elettronica l'avete utilizzata come passaggio o invece solo come alternativa, ma naturalmente i nostri esperti sono a vostra disposizione anche per suggerirvi come provare a smettere di fumare. Non c'è solamente il cerotto, non c'è solo la sigaretta elettronica, e ci sono tanti modi, ciascuno deve un po' trovare il suo. Proviamo a darvi una mano, ma prima sentiamo Riccardo che ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie Riccardo. Allora, volevo dirle, mia moglie 2 anni fa per il compleanno mi ha regalato questa benedetta sigaretta elettronica. Sì. E veramente con me ha funzionato. Guarda, io dall'età di 13 anni, quindi la seconda media, ne ho 52, praticamente sono 37-38 anni che ho fumato di seguito. Un pacchetto e mezzo di sigaretta al giorno. E però devo dire che con la sigaretta elettronica, fra l'altro, ho anche diminuito il dosaggio della nicotina, perché ho iniziato con 1,8, che diciamo è lo standard, via, con cui uno inizia. E poi dopo, adesso, sto usando 0,9. E fra l'altro non è che la fumo in continuazione, come l'ascoltatrice aveva detto, giusto quando uno ha un po' voglia, poi dopo uno la rimette lì, magari tutta la giornata uno non ci pensa, e fine. Quindi con me avevo provato un successo. Come? Con lei ha avuto successo, Riccardo. Sì, con me veramente. Professor Polo, sì, mi dica Riccardo. Ecco, no, volevo dire un'altra cosa. Sì. Sarebbe interessante anche cercare di invogliare, non a fumare la sigaretta elettronica, però chi è già fumatore, vogliare nel senso, di guardare anche il lato economico, ma il lato della salute, e soprattutto sul fatto che si riflette sulla società. Certo. Perché un domani un fumatore che si ammala di cancro, penso che sul corso della Veronesi si è schierato a favore della sigaretta elettronica, dicendo che se per ipotesi tutti i fumatori di sigarette tradizionali passassero alla sigaretta senza tabacco, si otterrebbe a breve una riduzione drastica del cancro polmonare, che nel frattempo potrebbe diventare una malattia rara. Professor Polosa, facciamo un commento partendo dalla storia di Riccardo. Vorrei parlare di Riccardo, il Bravo. Mio omonimo. Certo. L'omonimo da Torino. Io penso che quello che voleva dire Riccardo, in base alla sua esperienza positiva, è che il governo, invece di osteggiare questi prodotti, dovrebbe promuoverli, perché solo promuovendoli, solo rendendo la sigaretta elettronica cool e dall'altra parte rendendo la bionda meno con meno appeal, ecco, con meno appeal, solo così sì, riusciremo a fare una vera rivoluzione e riusciremo veramente a ridurre la mortalità di cui parla Veronesi in ambito oncologico. Però se vogliamo possiamo parlare anche di mortalità in ambito cardiologico e nell'ambito anche respiratorio. Cuore e denari. Il sale te l'ho dato, a luce non domando. Il detersivo te l'ho messo. O manda della ADL che te aveva fastidio e te l'hai spostata. O rubinetto e l'acqua te l'hai aperta. O programma che ti è morto te l'hai messa. E dici che non vuoi fare no! Voglio avere te piuttosto, tu o io! Puzzitto sangue, ma è venuto la voce! Mannaggia la pastoviglia, chi l'ha inventata? Mannaggia la lavastoviglie, chi l'ha inventata? A chi non è capitato di litigare con lavatrice, lavastoviglie, un frullatore che non volevano sapere di funzionare? Gli elettrodomestici, lo sappiamo, sono un aiuto preziosissimo, ma quando iniziano a non funzionare più molto bene o a rompersi del tutto diventano un problema. Alle 11.50 inizieremo proprio a parlare di questo. Che cosa succede quando si rompe un elettrodomestico in casa? Sappiamo smaltirlo in modo corretto. 800 24 00 24, se qualcosa in casa vostra si è rotto. A casa mia ieri si è rotto proprio un frullatore, ma poi ve lo racconto. 800 24 00 24, se volete parlare di questo tema, iniziate a prenotare le vostre telefonate. Cambieremo gli esperti e ci raggiungeranno intorno alle 11.50 per approfondire questo secondo argomento. La la la la la. Non siete nati fumatori? Perché c'è stato un periodo nella vostra vita in cui non fumavate. Angelica lavora come psicologa in un centro antitumori e da un anno conduce con successo un corso antifumo a cui ci ha costretti tutti a partecipare. Era evidente che alcuni non erano adatti a quel metodo, ma Roberta è addirittura negata. L'unico modo per smettere un vizio è iniziarne un altro. Si chiama legge di compensazione, lo sapevi? Che cosa vi ho detto? Non dovete parlare tra di voi. Voi dovete concentrarvi sul fumo. Sul sapore in bocca del fumo, sulla sensazione fisica del fumo che entra nella gola e va giù nel petto. Adesso fate una bella boccata tutti insieme. Com'è? Cattivo. E noi ci concentriamo sul tema di oggi, parliamo di sigaretta elettronica, lo facciamo con il professor Polosa e il dottor Boffi. Prudenti e favorevoli, li abbiamo divisi così. Professor Polosa, riprendiamo il nostro pensiero legato all'intervento di Riccardo, che ci raccontava che la moglie le ha regalato la sigaretta elettronica e lui con grande successo è passato dalle bionde alle elettroniche, riducendo progressivamente il contenuto di nicotina. Professore. Cara, nella storia di Riccardo, che poi è la storia di tantissimi svapatori in Italia e nel mondo, è che lui spontaneamente ha ridotto il quantitativo di nicotina nel suo liquido elettronico. E questo ce la dice abbastanza lunga sul fatto che questi prodotti non inducono una forte dipendenza, contrariamente a quello che si dice. Il motivo è molto semplice. Gli studi di farmacocinetica, cioè di come si muove la nicotina all'interno del nostro corpo, dimostrano chiaramente che l'assunzione di nicotina attraverso la bionda è immediata, velocissima, mentre l'assunzione di nicotina attraverso una sigaretta elettronica impiega, invece dei 10-15 secondi normalmente impiegati attraverso una sigaretta tradizionale, impiega addirittura qualcosa come 15 minuti. Siccome il grado di dipendenza è direttamente a lento rilascio, si potrebbe dire, mi pare che va da sé che il problema della dipendenza, anche dal punto di vista di farmacocinetica, venga un po' sfatato. Professore, due domande. La prima riguarda i liquidi. I liquidi, come possiamo essere certi della qualità di questi liquidi? Questa è una bella domanda, è un tema che secondo me è molto caro, anche perché Io sono dell'idea che invece di parlare in toni allarmistici di sigarette elettroniche, sarebbe più logico e razionale parlare di standard di qualità e sicurezza di questi prodotti. E lei ha anticipato, molto, professore, evitare l'acquisto su internet, giusto? Allora, io quello potrebbe essere una soluzione, ma la vera soluzione è quella che comunque le industrie responsabili stanno seguendo, che è quella di darsi delle regole per gli standard di qualità e di sicurezza. Io faccio parte di una commissione internazionale e stiamo valutando globalmente quali sono tutti gli aspetti, sia per i liquidi, ma nell'attesa che voi facciate il vostro, insomma, che lavoriate bene per noi, come faccio a essere certa della qualità del liquido della sigaretta elettronica? Come posso fare? Una delle cose più semplici che uno può fare è cercare di vedere l'etichetta. L'etichettatura dovrebbe rappresentare ciò che è all'interno del prodotto, ma questo vale per qualsiasi prodotto di libero consumo naturalmente. E il vero problema, e per questo ritorno sugli standard di qualità e sicurezza, è che fino ad oggi non ci sono stati, se non degli eventi spontanei generati soprattutto dall'industria italiana, che si è data immediatamente degli standard di qualità e sicurezza che sono fondamentali per garantire che il fumatore, insomma, abbia, però, un prodotto. Io su questo liquido non ho capito cosa devo fare, ma se magari poi ci ritorniamo, perché abbiamo tantissimi ascoltatori che cercano di mettersi in contatto con noi. Alcuni via SMS chiedono proprio dottor Boffi, perché ha partecipato tante volte, abbiamo fatto il primo reality per smettere di fumare, si ricorda? Come no? Era... Va bene, ho 45 anni, ho fumato per 10 anni circa, dai 20 ai 30 anni, 30-40 sigarette. Ho smesso nel 98, domando, sono tornato nuovo? Beh sì, ex fumatore dal 98. Ex fumatore o ex fumatrice lo si diventa dopo un anno, però dopo 10 anni e passa si può considerare ormai eliminata gran parte dei potenziali danni per il proprio fisico. Infatti, ad esempio, l'Istituto Nazionale dei Tumori da molti anni si fanno gli screening per il tumore del polmone sui fumatori, e lo si fanno anche con l'attacco spirale, con i test genetici anche negli ex fumatori, ma che abbiano smesso di fumare da meno di 10 anni, perché se si è smesso di fumare da più di 10 anni il rischio potenziale oncologico viene considerato troppo basso per giustificare tutti questi esami diagnostici, per cui direi che ormai mi ha dato lo spunto per chiederle, dottor Boffi. Tutte le puntate che noi facciamo sul fumo naturalmente vogliono invitare gli ascoltatori a provare a smettere, a riprovare, e raccogliamo tante loro testimonianze. Per chi decidesse di non smettere di fumare, un fumatore incallito che dice io fumo, ci sono dei controlli che voi, lo chiedo a lei naturalmente, anche al collega, al suo collega professor Polosa, che voi suggerite di fare per monitorare la situazione? Cioè, uno sa che fa un segue un comportamento a rischio e vuole controllare un po' la sua salute. Che cosa deve fare, ogni quanto che efficacia? Ecco. Beh sì, ci sono poche cose ancora di provata efficacia nello screening di massa dei fumatori, quindi noi consigliamo intanto di parlarne col medico di famiglia, che magari è al posto della situazione, ad esempio la famiglia. No? Quindi il rischio anche per patologie concomitanti che possono essere aggravate dall'abitudine tabagica. Però ci sono diversi studi in corso, come dicevo prima, in particolare quelli genetici associati all'attacco per lo screening del tumore del polmone, mentre a livello cardiovascolare, ad esempio, si consiglia dopo i 50 anni ai forti fumatori di fare un Doppler dei tronchi sovraortici. Dove si va? Si parla con il medico di famiglia? Sì, certo, è inutile esami. Andare ai centri antifumo, no, se uno non vuole smettere di fumare. O secondo lei conviene farci un saltino? La maggior parte dei centri antifumo sono localizzati dentro ambulatori di pneumologia, dentro ospedali di pneumologia, dove c'è un esame secondo me fondamentale per fare diagnosi precoce di un'altra cosa, anch'essa molto grave, si chiama bronchite cronica ostruttiva, la cosiddetta BPCO. Allora noi, con la possibilità di fare la spirometria, che consigliamo a tutti i fumatori che hanno affanno o tosse, possiamo fare diagnosi precoce. E lì si intervenire con dei farmaci per via inalatoria per rallentare il declino della capacità respiratoria. Professore, oltre ai liquidi, avevo un'altra domanda per lei. Mi spieghi bene. La sigaretta tradizionale finisce dopo un tot di boccate, no? Contrariamente invece allo svapo, che può continuare a discrezione dello svapatore. Uh-huh. Quali consigli si sente di dare a chi svapa e chi forse per, no? Si, io vedo degli svapatori che tengono un po' questa sigaretta elettronica in bocca e con un po' come un ciuccio, ecco, però nel frattempo svapano. Ma io non sono molto d'accordo su questa visione dello svapatore che ciuccia in continuazione il vapore elettronico, non è proprio così. I dati di topografia dello svapo evidenziano come chiaramente sia differente il comportamento. Per esempio, quando si accende una sigaretta uno si sente obbligato a fumarla tutta, è difficile sì. che qualcuno che accende una sigaretta poi la prenda e la getta via a metà strada, è una cosa inusuale, mentre lo svapatore di fatto ha la cordina, attaccato alla cordina questo strumento e poi ogni tanto casualmente, penso che Riccardo abbia dato la sua esperienza anche su questo aspetto, ogni tanto si sente così anche rasserenato al fatto che abbia questo supporto al collo e ogni tanto tira una svapata, sì. ma sicuramente globalmente io non mi sento assolutamente di dire, e gli studi ormai lo confermano, che lo svapatore fumi globalmente più di un fumatore, per i motivi che ho già esposto. Per quanto riguarda i liquidi elettronici, sì. scusami se non ho risposto prima. No, ma sono io che sono un po' dura. È difficile banalizzare questo argomento. Se volete una risposta senza che io faccia pubblicità diretta, dico affidatevi ai buoni produttori italiani di nota fama che sicuramente utilizzano dei procedimenti industriali che garantiscono la sicurezza del consumatore. Dottor Boffi, lei che è prudente, ha pubblicato uno studio sì. con tre università americane sui possibili effetti del fumo emesso dalla sigaretta elettronica in confronto a quelli delle sigarette tradizionali. Uno studio che è stato avuto grande eco in America, un po' meno eco in Italia. Beh, intanto grazie per poterne parlare qui in questa trasmissione oggi, uno studio che è stato appena pubblicato, per cui ci sta. Il primo nome era di un collega, è di un collega di Los Angeles, quindi è giusto che sia partito il lancio stampa negli Stati Uniti. Comunque, e poi subito a cuore denari, fantastico. Eh sì, e poi sono molto orgoglioso perché è uno studio totalmente finanziato dal 5 per 1000 dell'Istituto Nazionale dei Tumori, per cui per una volta esportiamo in America non solo cultura, arte, ma anche qualche soldino. A fin di bene. Bene. E per capire di più, per ricercare l'efficacia della riduzione del danno. Si è parlato uno studio finora, indipendente. Esatto, si è parlato di efficacia a cessazione, il confronto con altri interventi efficaci antifumo ancora poca roba si sa, la sicurezza a lungo termine ancora meno, però noi avendo questa esperienza, questo know-how sul fumo passivo, non solo indoor ma anche all'aperto, di cui si accennava sì, prima. È un po' il vostro chiodo fisso. Esatto, no, chiodo fisso, però diciamo che è la nostra fortuna, la nostra capacità di questi anni di fare così tante scoperte. Ad esempio sul residuo al tobacco smoke, quello di cui parlava prima, cioè la capacità che ha il fumatore di inquinare il rientro. Allora abbiamo detto, misuriamo queste maledette polveri sottili, il particolato fine, anche nel vapore, quindi non nelle cartucce oppure in una cabina dentro un laboratorio di ricerca, ma in una stanza, in un soggiorno, in una stanza di 50 metri cubi, come può essere una stanza degli studi di tumori come quella di qualunque altro appartamento o luogo pubblico, e i risultati delle nostre ricerche sul confronto tra la composizione di questo vapore emesso dalle sigarette elettroniche e quello con le sigarette normali ha dato dei risultati molto interessanti. Direi che le sigarette elettroniche non sono uscite bene da questo studio perché non abbiamo evidenziato nessuna produzione dei famigerati idrocarburi policiclici aromatici, che sono sostanze notoriamente cancerogene, già dal nome, vero? Ecco, ed è l'IPA, e il black carbon, che è una cosa di cui si parla molto adesso anche per l'inquinamento nelle grandi città, che è direttamente correlato con la componente più tossica del particolato fine, del PM10. Quindi questo non c'è nel vapore delle sigarette elettroniche. Mentre abbiamo trovato, e questo ci ha abbastanza stupito anche noi, stiamo parlando comunque di un grosso marchio che ha la fetta superiore, più della metà del mercato in Italia, delle sigarette elettroniche, una significativa presenza di metalli pesanti, in particolare uno, il nickel, a cui ci sono persone allergiche, quattro volte più nella sigaretta elettronica rispetto alla sigaretta normale, e un altro metallo, il cromo, presente solo nella sigaretta elettronica, non in quella normale. Quindi il messaggio finale nella discussione, come si certo. Mette nei paper, nostro è non criminalizzare questo presidio, che non è però ancora medicale per i motivi che ci siamo detti prima, ma sulla base di questi risultati consigliamo un implementare, diciamo, i controlli, le regole di qualità nei processi di produzione di cui parlava anche prima Riccardo Polosa, e in modo di cercare di ridurre al massimo l'esposizione a questi composti potenzialmente tossici, sia per chi la usa sia per chi sta vicino. Non la usa, ma la sta vicino, per cui la nostra avvertenza e non solo per motivi culturali e ambientali, diciamo filosofici, ma anche per motivi concreti, fisici, è meglio svapare nello stesso modo in cui si fuma, cioè andando fuori negli ambienti all'aperto. Allora, io devo salutarvi, torneremo sicuramente a parlare di fumo. Professor Polosa, vogliamo ricordare quando la sigaretta elettronica non è indicata? Quali fumatori non è indicata? Alla stessa stregua dei cosmetici e dei farmaci topici come le creme, le gocce per gli occhi, io non consiglierei la sigaretta elettronica solamente in quei rari casi in cui si possono sviluppare ipersensibilità agli eccipienti, ai solventi, eccetera. Quindi chi prova e nota delle irritazioni, per esempio alla bocca, alla cavità orale, sicuramente non dovrà fare una scelta diversa. È anche vero che alcuni eccipienti sono presenti in alcuni solventi piuttosto che altri, per esempio la ipersensibilità al glicol e propilenico è abbastanza ben documentata in dermatologia. Infatti è un prodotto che si usa ampiamente nelle creme anche di uso farmaceutico, e si può sicuramente alternare con un prodotto a base di glicerina vegetale, che sicuramente non darà alcuna ipersensibilità. Quindi ci sono diverse, per quanto riguarda gli studi di Roberto, è chiaro che quello che è stato visto da Roberto sono elementi riferiti a un determinato tipo di sigaretta elettronica con un filamento al nickel cromo. È ovvio che la nuova tecnologia, l'innovazione in questo campo va speditamente, e i nuovi prodotti addirittura possono utilizzare dei filamenti non metallici, quindi questo è un problema che è facilmente risolvibile. La ricerca punta alla sicurezza e alla qualità. Dottor Boffi, una battuta prima di salutarvi? Beh, nelle regole per usarla bene, di cui accennavo prima, che se ha piacere possiamo mettere anche nel sito web del Sole 24 Ore. Direi questo, cioè se usandola avverti qualche disturbo, e comunque io da pneumologo questa è una cosa che mi sento dire non raramente, soprattutto da certi pazienti allergici o asmatici, tipo bruciore alla gola, tosse, un po' di affanno, parlane col tuo medico di famiglia, o meglio ancora con lo pneumologo, perché magari non sei la persona più adatta o la stai usando in maniera sbagliata. Allora, chiudiamo con Aurelio da Modena, prima di passare al secondo argomento sugli elettrodomestici. Aurelio, anche lei ha smesso di fumare, ma... Aurelio? Io ho smesso di fumare, sì. Però non ho assolutamente nessuna voglia di ricominciare, anche se ho intorno sempre persone che mi fumano continuamente, anche dopo delle bellissime serate che passiamo insieme con amici, tutti fumano. Io proprio non sento assolutamente nessuna voglia. Senta, ma è vero che c'è di mezzo una bionda, una mora? Ma non... Una bionda. Ecco, lei ha buttato le bionde grazie a una bionda. È una donna che ha aiutato Aurelio a smettere. Altro che il dottor Boffi, vede dottor Boffi, il nostro dottor antifumo, mamma, che è stato battuto dall'amore. Cuore e denari. Oh, mi scusi tanto il disturbo, né signora Adele, ma avrei bisogno del solito piacere. Ah, ma che disturbo, prego. Le pare, si accorga. Se c'è un po' di posto in quel suo frigorifero così grande. E beh, 180 litri. E che ho fatto? Certo che è bello grande, né? E anche ben tenuto. Pensi che non ha ancora 12 mesi? Ah. E sapesse che è acqua gelida, che fa? Ne vuole un po'? No, per la carità, non si... Ma no, si figuri. Ben gentile. Straordinaria Monica Vitti, la ricordate? Allora, ci siamo, affrontiamo questo secondo tema nella puntata di Cuore Denari di oggi. Parliamo di elettrodomestici. Abbiamo sentito il pezzo relativo al frigorifero spazioso, ma anche elettrodomestici piccoli sono essenziali, sono degli aiuti meravigliosi che entrano nelle nostre case, però anche loro, ahimè, a un certo punto si rompono. E allora come vanno smaltiti? Bisogna farlo nel modo corretto, perché c'è in gioco il rispetto della legge, dell'ambiente, di chi ci sta vicino e anche un vero e proprio mercato. 800 24 00 24, diteci qual è l'apparecchio che si è rotto e noi vi diremo come buttarlo, ma raccontateci anche se l'avete buttato. Vi mando e leggo subito un messaggio che arriva da Stefano al 349 238 6666, è un agricoltore e ci raccomanda di dire per radio che i RAE non vanno buttati lungo i fossati in campagna, ma vanno portate alle stazioni ecologiche. Voglio presentarvi gli ospiti che ci accompagneranno in questa seconda parte del programma. Abbiamo Paola Guidi, che è giornalista e collaboratrice del Sole 24 Ore. Ciao Paola. Ciao cara Saunico, buongiorno a tutti voi. E Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, il consorzio italiano per il recupero e riciclaggio degli elettrodomestici. Arienti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, troppo spesso gli elettrodomestici, soprattutto quelli piccoli, vengono trattati impropriamente e si rompono. Ci fa un quadro della situazione in Italia? Intanto diciamo che stiamo parlando di quelli che vengono definiti, come ci scriveva Stefano, RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Arienti. Ma il sistema di gestione dei RAE in Italia arriva a raccogliere circa 200.000 tonnellate all'anno, che sono poco meno di 4 kg per abitante. Purtroppo ce ne sono altri 8 che vanno persi lungo mille rivoli. Come diceva Stefano nel messaggio che lei ha appena letto, vengono abbandonati nei fossati, sui bordi delle strade, in qualche discarica più o meno abusiva. Altri prendono strade addirittura più oscure, penso per esempio al fenomeno dell'export illegale, per cui questa tipologia di rifiuti vengono avviati in Africa o in Asia per essere poi trattati in condizioni disumane proprio dal punto di vista sociale, con l'impiego di manodopera minorile. Il tema delicato è che questi rifiuti contengono sostanze inquinanti e quindi vanno trattati in un modo accurato, richiedono un trattamento particolare e contengono materie prime che è davvero un peccato non riutilizzare, non riciclare. Arienti, ci dice quali sono gli errori più frequenti? Ma l'errore più frequente credo che sia relativo ai piccoli elettrodomestici. Sì, perché se ne disfa in modo, no? lo butta magari nella raccolta indifferenziata, lo nasconde. Nel sacco nero della spazzatura indifferenziata, perché è piccolo, perché ingombra poco, perché ecco, dobbiamo porre particolare attenzione a questo aspetto. L'altra cosa a cui porre attenzione è che comunque questi rifiuti vanno dati a soggetti autorizzati a farlo, a soggetti competenti, perché altrimenti è molto facile dimenticare che contengono sostanze inquinanti e porre l'attenzione sul fatto che appunto contengono anche materie prime. Allora, se vi è capitato di trovarvi nella necessità di smaltire un rifiuto ingombrante, chiamateci, raccontateci come avete fatto, chi vi ha aiutato, se vi è costato qualcosa. Vogliamo anche sapere di cosa vorreste liberarvi e quali dubbi avete in merito, perché i nostri ospiti potrebbero darvi delle idee, dei suggerimenti. Evitare è di farci fare un errore. Paola, quella dello smaltimento dei rifiuti in realtà non è solo un'emergenza, possiamo leggerla anche come un'opportunità, anche direi un'occasione per creare posti di lavoro. Ci spieghi come mai? Perché dovrebbe aumentare la sensibilità di tutti noi su questo tema? Sì, perché non è solo una percezione, ma adesso è una realtà. Sembra, da un'inchiesta fatta in Italia, che il 74% degli italiani siano convinti che la tutela ambientale crei occupazione, se ne sono resi conto. Ma sono ancora di più le donne, questo che è interessante. 20 anni fa già Feder Casalinghe, che voi conoscete, certo, aveva vinto un concorso europeo con un progetto per la raccolta differenziata, 20 anni fa, e adesso sta studiando, sempre queste donne insieme, hanno studiato un progetto insieme degli ingegneri di un contenitore per la raccolta domestica differenziata che verrà presto portato sul mercato. Quindi c'è la sensibilità da parte soprattutto della manager dell'ecologia domestica, e anche perché si sono resi conto che ci sono posti di lavoro. La potenzialità occupazionale, proprio all'inizio dell'avvio del programma europeo, detto da ingegneri, stimava in 13.000 nuovi posti di lavoro per ogni 6 milioni di tonnellate di apparecchi RAE, ovviamente, senza parlare del resto, ovviamente. E quindi il settore dei rifiuti urbani e domestici porterà entro il 2020 90.000 nuovi posti di lavoro. Abbiamo in linea con noi Filippo da Cosenza. Buongiorno Filippo, 800 24 0024. Filippo, che ci racconta che? Me lo dica lei, la stessa cosa che ha pensato, che vuole dire lei, l'ho pensata io ieri quando mi si è rotto il mio frullatore. Stavo facendo. Sì, no, ma. Io sono un vecchio appassionato della, soprattutto per il suono delle valvole, e lì non se ne vedeva mai la fine. Soprattutto gli elettrodomestici bruni, televisori, radio, iPhone e altro, praticamente si scassano, prima si riparavano l'elettronica di una volta e quindi era anche ecologica, adesso si vanno e si buttano alle isole ecologiche e soprattutto non c'è sono bombe chimiche, perché c'è arsenico, c'è cianuro, ci sono altri componenti che una volta nei nonni di questi che erano migliori. E praticamente queste cose, soprattutto come sentivo il signore prima che diceva, buttarle nei fossati, nelle scarpate è un attentato, insomma, alla salute, perché poi vanno nelle falde acquifere e compagnia bella, insomma. Filippo, possiamo riassumere un po' il suo intervento come non ci sono più gli elettrodomestici di una volta? Eh sì, perché ripeto, per l'elettronica le valvole non se ne vedeva mai la fine, o quasi. Per quanto riguarda gli elettrodomestici bianchi, congelatori, lavatrici, frigoriferi, si riparavano perché poi c'erano anche i ricambi, diciamo, ovviamente poi uno è giusto che lo cambi dopo un 10 anni, 8 anni. Certo, però il dubbio è che durino meno del tempo, no? Quello che viene detta anche l'obsolescenza programmata, a cui la Francia, Paola, ha deciso di porre un limite alla fine programmata degli oggetti, con pene fino a 2 anni per i produttori che fanno guastare prima gli elettrodomestici. Paola. E questa è una discussione continua, però bisogna dire una cosa, che ogni anno che passa qualsiasi macchina, anche il corpo umano, ma a maggior ragione una macchina elettrica o elettronica, se poi è elettronica, consuma sempre di più, ma sempre di più un 10-15%, perché non è più efficiente. Noi abbiamo il problema di non importare preziosi combustibili, noi non possiamo continuare a sprecare soldi nella bolletta energetica perché abbiamo in casa degli elettrodomestici spreconi. L'obsolescenza programmata è purtroppo una necessità, perché così intanto bisogna creare posti di lavoro. Questo è fondamentale, e poi perché bisogna programmare anche i pezzi di ricambio, e per poterlo fare, dato che le fabbriche non fanno più 500.000 apparecchi ma 10 milioni per volta, o anche solo 5 milioni, bisogna programmare per tempo quanti apparecchi si guasteranno per fare poi i pezzi di ricambio. Allora, intanto vogliamo anche sentire i vostri interventi proprio riguardo a questo tema che ci ha portato il nostro ascoltatore. Non ci sono più gli elettrodomestici di una volta, ma giustamente Paola Guidi ci dice la ricerca va avanti, giusto Paola? E quindi dobbiamo avere, non solamente per un discorso di posti di lavoro, ma anche per avere elettrodomestici rispettosi dell'ambiente. E poi per recuperare oro. E poi per recuperare oro, e veniamo a questo tema prezioso, recuperare oro. Preziosissimo. Siamo a cuore denari. Se, appunto, ogni anno in Europa si recuperano metalli preziosi dai vecchi elettrodomestici e dalle vecchie TV per circa 1 miliardo di euro. Pensate che noi in Italia potremmo recuperare 320 tonnellate di oro e 7.000 di argento se facessimo la raccolta totale proprio di tutto quello che viene buttato via. Le terre rare, che sono ancora più preziose, ecco, costano da 5 a 10 mila dollari la tonnellata, servono per l'elettronica avanzata, e ne buttiamo via man mano che li raccogliamo, ricicliamo, e quindi ricicliamo in modo professionale dal punto di vista industriale e molto avanzato come in Italia. Bene, in questo modo recuperiamo tesori immensi che vanno poi a finanziare che cosa? Le materie seconde, perché che vengono utilizzate dalle nostre industrie, perché noi non abbiamo materie prime. Quindi il concetto, ci sono tante buone ragioni per imparare a smaltire in modo corretto i nostri elettrodomestici. Naturalmente arrivano i messaggi anche dei nostri ascoltatori, come Ale, che dice che ha dalla moglie da smaltire, dice molto ingombrante. Naturalmente il dottor Arienti non potrà dargli una mano. Invece al dottor Arienti volevo leggere un messaggio che ci arriva da Paolo. Ho trovato in una zona rifiuti una stampante non funzionante, quasi nuova per PC, con imballo. È bastato un piccolo elementare intervento di pulizia, contatti, ora funziona perfettamente. Paolo ci scrive: una vergogna, come a dire che a volte buttiamo via degli elettrodomestici che sono ancora funzionanti o a cui basterebbe, no, fare un piccolo ritocchino. Sì, questo è verissimo, e tra l'altro nella gerarchia di gestione dei rifiuti della Comunità Europea, dello Stato italiano, la preparazione per il riutilizzo, cioè la possibilità di reimpiegare l'apparecchiatura in quanto tale, viene prima di qualunque altra forma di gestione del rifiuto. Però mi permetto una nota, anche agganciandomi alla cosa, all'osservazione fatta da Filippo, credo, nel messaggio, sì, che nella telefonata di prima. Le apparecchiature di oggi sono, dal punto di vista ambientale, infinitamente migliori delle apparecchiature di 10 anni fa. Sia, come diceva la dottoressa Guidi, per quanto riguarda il consumo energetico, oggi un frigorifero o una lavatrice consumano 100 volte meno di quanto consumavano le zie e le nonne di 20 anni fa, ma anche dal punto di vista ambientale, contengono sostanze di gran lunga meno inquinanti. Faccio un esempio: il gas contenuto nel circuito refrigerante e nelle schiume dei frigoriferi non è più CFC, che aveva un impatto sullo strato d'ozono devastante, ma è un pentano naturale che ha un impatto infinitamente minore. Quindi la ricerca e il lavoro che stanno facendo i produttori di apparecchiature va anche nella direzione di una maggiore tutela ambientale. E questo vale anche per il bruno, per esempio le polveri fluorescenti contenute nei vecchi tubi catodici, uh-huh, o il consumo energetico di un vecchio tubo catodico non può reggere il confronto con le moderne apparecchiature a LED. Quindi stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda la produzione di nuove apparecchiature. Per quanto riguarda la nostra propensione invece a buttare un po' troppo allegramente cose che potrebbero essere riutilizzate, reimpiegate come tali, purtroppo è così, ma questo fa parte probabilmente di una scarsa attenzione culturale che noi italiani, in particolare noi italiani, abbiamo, ed è la stessa scarsa attenzione che ci porta a fare male la raccolta differenziata. Siamo un po' troppo frettolosi nel buttar via, e buttiamo via male, buttiamo via cose che potremmo ancora riutilizzare o magari regalare a qualcuno meno fortunato di noi. Buttiamo via nel sacco nero gli elettrodomestici piccoli, buttiamo nel fosso la lavatrice perché non sappiamo dove portarla. Siamo un po' troppo superficiali dal punto di vista culturale, proprio nel rispetto alla tutela ambientale. Arienti, i nostri ascoltatori vogliono sapere da lei come smaltire correttamente alcuni piccoli elettrodomestici, ad esempio la piastra dei capelli, il bollitore elettrico, dove li mettiamo? Ci sono due strade molto semplici. Sì. Una è l'isola ecologica, che quasi tutti i nostri comuni hanno allestito, quindi si va all'isola ecologica, si consegna, come cittadini abbiamo questo diritto e non ci sono più problemi. Da lì il nostro RAE prende la strada giusta. L'altra grande possibilità è al negozio, perché sì, esistono due norme purtroppo poco conosciute. La prima è il cosiddetto ritiro uno contro uno: quando acquisto una nuova apparecchiatura ho il diritto di restituire gratuitamente la vecchia apparecchiatura al negoziante. Anche se non l'ho comprata da lui la prima, quella anche vecchia. Anche se non l'ho comprata da lui, vado da un soggetto, compro la nuova apparecchiatura e ho il diritto di consegnare gratuitamente quella vecchia. L'altra opportunità... E se lui mi dice di no, io che cosa dico? L'ho sentito a cuore denari, ma forse non basta, c'è una... Purtroppo siamo in un paese un po' difficile dal punto di vista della tutela dei diritti. Ho il diritto di protestare, probabilmente se lo ricordo con un minimo di energia, il negoziante si rende conto che sta commettendo un errore, sì, e probabilmente accetta la soluzione, altrimenti ho l'associazione dei consumatori, perché comunque è un diritto sancito da una legge. L'altra grande opportunità è invece il ritiro 1 contro 0 per i piccolissimi elettrodomestici, cioè per gli elettrodomestici la cui dimensione massima non supera 25 centimetri. Il consumatore ha il diritto di portarli al negoziante anche se non compra un'apparecchiatura nuova. Quindi è un ancora più semplice possibilità di disfarsi dei piccoli RAE. I piccoli, quindi il bollitore elettrico è abbastanza piccolo? 25 centimetri di dimensione massima. Sarà una spanna e mezza. Allora andiamo a Piero da Milano e poi Riccardo da Bolzano. Piero, buongiorno. Buongiorno. Allora, ho sentito tante belle parole dei nostri esperti cervelloni. Adesso vi volevo dare... No, perché cervelloni? Beh, ascolti. No. Io, diciamo, sono Piero, che sono due esperti cervelloni, no, mi sembra una parola in più. Non comunque. C'è problema. Allora, io sono un consumatore. Sì. No. Piero? Installatore, diciamo, è tutto. Per cui possiamo vedere. No, lei è un consumatore, scusi, è andata via la voce, e poi? Consumatore, diciamo, per quanto riguarda chiaramente gli elettrodomestici e tutto il resto. E nello stesso tempo sono anche un rivenditore di macchine per ufficio, per questo punto la vedo da, sia sì, da acquirente sia da venditore. Ok, venendo al motivo venendo della... Venendo al sodo. Allora, le belle parole che ho sentito, diciamo, riguardo, primo, lo smaltimento dei RAE. Allora, se noi andiamo a smaltire un RAE in una piazzola ecologica con un frullatore o un ferro da stiro o qualcosa che portiamo a mano, va tutto bene. Se ci andiamo con un frigorifero o se ci andiamo con una lavatrice, non ci possiamo andare a mano, dovremmo andare ovviamente con un furgone come minimo. Se vai in una piazzola ecologica con un furgone non puoi entrare, c'è la telecamera che ti impedisce di entrare, e a questo punto se entri con furgone paghi una multa. Devi chiamare l'ANSA, qui parliamo di Milano, non parliamo di, di cani cattivi, vado alla pesca con rispetto parlando. Milano, vai in una piazzola ecologica, non ti fanno entrare con il furgone. Quindi se io dovessi anche entrare con una macchina per ufficio o roba del genere, non ce la potrebbe fare. Allora, Piero denuncia, questa è Arienti, Paola Guidi, possiamo dare un'indicazione a Piero? Sì, direi che la situazione è un pochino diversa per come la conosco io da come la racconta l'ascoltatore. Il tema è che la legge fa una distinzione, purtroppo, tra RAE provenienti da nuclei domestici, cioè che, ciò che viene dalle nostre famiglie, e RAE che provengono dalle attività professionali. Il diritto di accesso all'interno di un'isola ecologica come quella di AMSA che citava l'ascoltatore vale per i soggetti domestici, cioè per i RAE provenienti da nuclei domestici. Perché le isole ecologiche sono state realizzate dai comuni per la raccolta dei rifiuti urbani, cioè dei rifiuti domestici. Quindi un soggetto, il tema non è il furgone o non il furgone, il tema è chi è il soggetto che porta alle isole ecologiche. I RAE professionali hanno una strada diversa che non transita dalle isole ecologiche, che richiede il fatto che il detentore del rifiuto faccia un accordo con un soggetto in grado di garantire lo smaltimento di quell'apparecchiatura nell'ambito della sua attività professionale. Quindi il detentore, l'ufficio che deve liberarsi dei propri IPC, deve cercare qualcuno, pagando se necessario, che sia in grado di garantire questa attività. Allora, torneremo su questo tema insieme a Paola Guidi e a Giorgio Arienti. Molto interesse da parte degli ascoltatori di Cuore Denari, tra sigarette elettroniche ed elettrodomestici, insomma, i nostri centralini sono andati in fumo. Grazie ai nostri ospiti, a Carmelo Lauricelli in regia la parte tecnica, a Laura Vanossi, a Marco Lombardo, domani torna anche Deborah e quindi vi aspettiamo domani.